Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. Nel mese di maggio avvenne che lo zio Gotthold, il console Gotthold Buddenbrock, ormai sessantenne, in una notte triste, fosse colto da un attacco di angina pectoris e morisse di morte dolorosa fra le braccia della consorte Nata Stüving. Come era naturale, la carica e il titolo di regio console olandese che Thomas avrebbe potuto pretendere per sé subito dopo la morte di suo padre, passarono ora a lui con immensa soddisfazione di Tony Grünlich, e lo scudo con leone, stemma e corona riapparve sulla facciata della Mengstrasse sotto il Dominus Providebit. Di solito i casi di morte creano un avvicinamento alle cose celesti, e perciò nessuno si meravigliò di sentire dalle labbra della vedova Buddenbrock, dopo la morte del marito, frasi profondamente religiose, alle quali prima non si era stati avvezzi. Ma ben presto si vide che non era una cosa passeggera, e in tutta la città si diffuse la notizia che la vedova del console intendeva onorare la memoria del defunto, soprattutto facendo sue le idee religiose di lui, dopo aver già simpatizzato con quelle tendenze negli ultimi anni della sua vita e precisamente da quando lei aveva cominciato a invecchiare. Si sforzava di empire il vasto palazzo con lo spirito del defunto, con quella mite gravità cristiana che non escludeva la signorile letizia del cuore. Le devozioni mattutine e serali furono continuate in misura più larga. La famiglia si adunava nella sala da pranzo, mentre il personale di servizio rimaneva nel vestibolo e la signora o Clara leggevano un brano della grande Bibbia di famiglia, con quelle lettere enormi, dopodiché si cantavano alcuni versi dal libro di preghiere, accompagnati all'armonio dalla signora stessa. Christian non si faceva vedere spesso alle adunate. Madame Grünlich poi si comportava purtroppo non sempre a modo. Una mattina i Buddenbrock avevano ospite un predicatore forestiero. Tutti dovettero cantare su una melodia solenne e appassionata queste parole: «Sono una vil carogna, un sacco di peccati, e come nera fogna me li sono ingoiati. A questo can, Signore, l'osso pietoso getta, a me, vil peccatore, nel paradiso accetta». Dopodiché la signora Grünlich, da tanto che era contrita, buttò via il libro e uscì dalla sala. Ora la signora Buddenbrock stessa era molto più severa con sé che con i figli. Organizzò, per esempio, una scuola domenicale. La domenica mattina una schiera di scolarette suonava il campanello nella Mengstrasse e la vedova Buddenbrock, Nata Kröger, con l'abito di raso nero pesante, il viso nobile e bianco e la cuffia di pizzo più bianca ancora, si sedeva a un tavolino sul quale era un bicchiere d'acqua zuccherata e catechizzava le bambine per un'ora intera. Istituì anche le serate di Gerusalemme, alle quali per amore o per forza dovevano prendere parte anche Tony, oltre a Clara e Clotilde. Una volta alla settimana, nella sala da pranzo, intorno alla tavola allungata al massimo, alla luce di lampade e candele, si raccoglieva una ventina di donne che avevano su per giù l'età nella quale è ora di pensare a procurarsi un posticino in paradiso. Prendevano il tè o il bischof, mangiavano panini imburrati e imbottiti, leggevano canti e trattatelli religiosi e facevano lavori a maglia che a fine d'anno si vendevano alla fiera. Dopodiché il ricavato era mandato a Gerusalemme per le missioni. La pia associazione era costituita soprattutto da signore del grado sociale dei Buddenbrock. Ma davanti a Gesù non ci sono gradi sociali né differenze, e perciò alle serate di Gerusalemme si vedevano anche figure più meschine e più strane. Tony era infelice, infastidita, e si seccava di tutti quei pastori evangelici e missionari le cui visite erano piuttosto aumentate che diminuite dopo la morte del console, e che secondo lei spadroneggiavano troppo in casa e prendevano troppi quattrini. Quest'ultimo particolare riguardava Thomas, ma egli non ne parlava, mentre di quando in quando sua sorella borbottava alludendo a persone che mangiano la casa alle vedove col pretesto della preghiera. Sivert Tiburtius era un omino sottile con un gran testone e portava gli scopettoni biondi, radi ma molto lunghi, di modo che, per comodità, ne passava i capi sulle spalle di qua e di là. Sulla testa tonda aveva un'infinità di riccioli lanosi. Aveva i padiglioni delle orecchie a ventola accartocciati al margine e verso l'alto appuntiti come quelli della volpe. Il suo naso era come un bottone piantato in mezzo alla faccia. Gli zigomi erano sporgenti e gli occhi grigi, che di solito erano socchiusi e guardavano in giro un po' stupidamente. Dedicava la sua attenzione a Clara, la sorella minore e severa. In sua presenza, quando ella parlava, entrava o usciva, gli occhi gli si allargavano in modo insospettato, diventavano sempre più grandi e sembrava che volessero uscire dall'orbita. E quasi tutto il giorno le stava alle costole, discorreva di cose sacre e profane, le leggeva qualche libro con quella sua voce alta e stridula e con la buffa pronuncia saltellante della sua città sul Baltico. Clara Buddenbrook aveva allora 19 anni, e coi suoi capelli scuri e lisci, con quegli occhi severi e tuttavia sognanti, col naso leggermente arcuato, con le labbra forse un po' troppo strette e la persona alta e snella, si era fatta una ragazza di una bellezza acerba e originale. In casa prendeva specialmente le parti della povera e altrettanto pia cugina Clotilde, la quale aveva da poco perduto il babbo e accarezzava l'idea di mettersi a posto al più presto, di farsi accogliere, cioè, in qualche pensione coi quattro soldi e coi mobili che aveva ereditati. Certo, Clara non aveva niente della rassegnata, paziente e affamata umiltà di Tilde. Al contrario, nei rapporti con la servitù e persino coi fratelli e con la madre, aveva un tono piuttosto imperioso. E già la sua voce di contralto, che sapeva abbassarsi con decisione, ma non mai alzarsi nelle interrogazioni, aveva un carattere autoritario e assumeva spesso un tono breve, duro, insofferente e arrogante, quando cioè Clara aveva l'emicrania. Prima che la morte del console piombasse la famiglia nel lutto, ella aveva partecipato sempre inavvicinabile alle riunioni nella casa paterna e alle visite nelle famiglie dello stesso grado sociale. Sua madre la guardava e non poteva nascondersi che, nonostante la dote cospicua e le sue qualità di massaia, non sarebbe stato facile trovare un marito per Clara. Ella non riusciva a immaginare al fianco della ragazza seria e piena di timor di Dio uno di quei commercianti scettici, gioviali, amanti del vino rosso che si vedeva intorno. Si figurava invece benissimo un ecclesiastico. E poiché questo pensiero la lusingava, gli approcci delicati del pastore Tiburtius incontrarono il suo moderato e cortese favore. In realtà la cosa si svolse con la massima precisione. Un pomeriggio di luglio, caldo e senza nubi, la famiglia organizzò una passeggiata. Sivert Tiburtius e Clara Buddenbrook rimasero un po' indietro. Lui, molto più piccolo di lei, coi favoriti sulle spalle, si era tolto il largo cappello nero di paglia e, asciugandosi ogni tanto la fronte col fazzoletto, aveva attaccato con lei una lunga e placida conversazione, durante la quale, a un certo momento, tutti e due si fermarono e Clara disse di sì con voce grave e tranquilla. Quando ritornati a casa, la signora Buddenbrook, un po' stanca e accaldata, si trovò sola nella stanza dei paesaggi, il pastore Tiburtius venne da lei, mentre fuori si stendeva il pensoso silenzio del crepuscolo domenicale e, alla luce della sera estiva, prese a parlarle lungamente, finché la signora concluse. «Sta bene, mio caro pastore. La sua proposta risponde ai miei desideri materni. E lei, a sua volta, glielo posso assicurare, non ha scelto male. Non voglio dirle oggi la mia ultima parola perché è opportuno che scriva prima al console mio figlio, che, come lei sa, in questo momento è all'estero. Domani, se saremo vivi e sani, lei se ne ritorna a Riga per prendere possesso della sua carica e noi vogliamo recarci al mare per qualche settimana. Tra poco avrà notizie da parte mia. E voglia il Signore che si possa rivederci felicemente. Amsterdam, 20 luglio 1856. Mia cara mamma, ricevo in questo momento la tua lunga lettera e mi affretto a ringraziarti con tutto il cuore per l'attenzione che mi dimostri chiedendo la mia approvazione per la nota faccenda. Va da sé che non solo do la mia approvazione, ma aggiungo i miei migliori auguri, profondamente convinto che voi, cioè tu e Clara, avrete fatto un'ottima scelta. Conosco già il buon nome di Tiburtius e mi par di ricordare che il povero babbo era in rapporti d'affari col vecchio. In ogni caso, Clara si troverà in una situazione gradita e anche la sua condizione di moglie di un pastore corrisponderà al suo temperamento. Mia ottima mamma, se oggi mi degno di mandare il mio autorevole consenso alla felicità terrena di Clara dalle rive dell'Amstel a quelle del Baltico, ciò avviene a condizione che tu voglia mandarmi a giro di posta un uguale consenso per un'uguale circostanza. Darei 3 fiorini d'argento se potessi vedere il tuo viso e specialmente quello della nostra brava Toni alla lettura di queste righe. Ma veniamo al fatto. Già al terzo giorno dopo il mio arrivo dovetti mettermi in alta tenuta per partecipare a un pranzo in casa del mio ex principale Van der Kellen, pranzo organizzato così fuori stagione evidentemente in mio onore. Per vicina di tavola avevo, immagina un po' chi, la signorina Arnoldsen, Gerda Arnoldsen, l'antica compagna di pensione di Toni, il cui babbo, grande commerciante e forse ancor più grande violinista, era presente insieme con la figlia maritata e il genero. Ricordo benissimo che Gerda, già da ragazzina, quando andava ancora a scuola da Mademoiselle Weichbrot, mi fece un'impressione profonda e non mai cancellata. E ora l'ho riveduta, più alta, più sviluppata, più bella, più intelligente. Dopo il pranzo mi feci presentare al vecchio Arnoldsen, che mi accolse con squisita cortesia. Più tardi, nel salotto, suonò alcuni pezzi da concerto e anche Gerda si fece sentire. Era stupenda, e per quanto io non abbia un'idea della musica per violino, vi so dire che cantava col suo strumento, uno Stradivario autentico, in modo da farmi quasi venire le lacrime agli occhi. Fin da quel momento formulai la mia ferma decisione, cioè o questa o nessuna. Mia cara mamma, no, non ti chiedo ora la benedizione per iscritto perché parto posdomani, ma porto con me la promessa degli Arnoldsen che verranno tutti a trovarci nel mese di agosto, il padre, Gerda e anche la sorella maritata, e allora anche tu sarai costretta ad ammettere che questa è la donna che fa per me. Che devo dire del partito? Io adoro Gerda Arnoldsen con entusiasmo, ma non ho nessuna voglia di scendere in fondo al mio cuore per sapere se e fin dove abbia contribuito a questo entusiasmo la dote cospicua che fin dalla prima presentazione mi fu sussurrata all'orecchio piuttosto cinicamente. Io l'amo, ma la mia felicità e il mio orgoglio sono ancor più grandi per il fatto che, facendo la mia, conquisto anche un aumento considerevole di capitale per la nostra ditta. Cara mamma, chiudo questa lettera già troppo lunga se penso che tra pochi giorni potremo discorrere a voce della mia felicità. Ti auguro un piacevole e proficuo soggiorno al mare e ti prego di salutare cordialmente tutti i nostri cari. Con grande affetto, il tuo devoto figlio, Thomas. Thank you. Siccome non era ancora passato l'anno di lutto dei Buddenbrook, i due fidanzamenti furono festeggiati soltanto in famiglia. Tuttavia, Gerda Arnoldsen divenne presto notissima in tutta la città e fu il principale soggetto di conversazione alla borsa, al circolo, nel teatro civico, in società. Ma fra i bravi e onesti cittadini ce n'erano parecchi che scuotevano il capo. Strano, quegli abiti, quei capelli, quel portamento, quel viso, sono un po' molto singolari. Un po' pretenzioso quel Thomas Buddenbrook, un pochino diverso, diverso anche dai suoi antenati. Si sapeva, lo sapeva specialmente Bentien, il mercante di stoffe, che acquistava non solo gli abiti fini all'ultima moda, e ne aveva una gran quantità, soprabiti, giacche, cappelli, panciotti, calzoni e cravatte, ma persino la biancheria ad Amburgo. Si sapeva anche che si cambiava la camicia ogni giorno, qualche volta persino due volte al giorno, e si profumava il fazzoletto e i baffi tirati alla Napoleone III. Sì, davvero, anche lui stesso, anche il console Buddenbrook, aveva un certo non so che, osservazioni che si faceva ben inteso con tutto il rispetto, perché la famiglia era rispettabilissima e la ditta era veramente solida. Subito dopo Natale si sarebbero festeggiate le nozze di Clara nel vestibolo a colonne con gran lusso. Il pastore e la sua sposa rinunciarono al viaggio di nozze. Gerda e Thomas invece si accordarono per un giro attraverso l'Italia settentrionale fino a Firenze. Sarebbero rimasti assenti circa due mesi. Intanto Antonin, insieme col tappezziere Jacob della Fischstrasse, avrebbe preparato la casetta della Via Larga, che apparteneva a uno scapolo trasferitosi ad Amburgo e della quale il console stava già trattando l'acquisto. Circa sette mesi dopo, il console Buddenbrook ritornava con sua moglie dall'Italia. La signora Antonie Grillich, orgogliosa dei preparativi che aveva fatti, stava sulla soglia e dietro a lei, ugualmente pronte ad accogliere gli sposi, erano con le braccia nude e gli abiti a righe le due donne di servizio con la cuffia bianca che Antonie, con conoscenza di causa, aveva scelte per la cognata. Svelta e accaldata per la fatica e per la gioia, ella fece i gradini di corsa, abbracciò Gerda e Thomas che erano scesi impellicciati dalla carrozza carica di valigie e li tirò dentro casa. «Eccovi qua, voi felici che avete viaggiato tanto! Avete visto la casa? La mamma vi aspetta nella Menkstrasse, ma prima vi metterete in ordine. Volete un po' di tè? Fate il bagno, tutto è pronto! Io vado a vedere se l'acqua bolle», disse Madame Grünlich. «Vi aspetto nella sala da pranzo!» e si avviò. Quando Thomas la raggiunse, trovò il tè fumante nelle tazze di Meissen. «Eccomi qua», disse. «Gerda vorrebbe riposare ancora una mezz'oretta, le duole la testa. E adesso racconta, come stai? Che cosa hai fatto in questo tempo?» Aveva avvicinato una sedia per la sorella e mentre discorrevano sorseggiava il tè e mangiava biscottini. «Oh, Tom», rispose lei, «che cosa vuoi che abbia fatto? La mia vita è già passata. Ma ora ho in vista un'altra cosa», proseguì Tony. «Ho un invito. Un invito a Monaco da parte di Eva Evers. E suo marito è direttore di una birreria. Insomma, mi ha pregata di andarla a trovare e prossimamente ho intenzione di accettare l'invito. Certo, Erika non potrà venire. La metterei a pensione da Sesame Weichbrot, dove starà benissimo. Hai qualche obiezione da fare?» «Nessuna affatto. È necessario che tu ti trovi in un nuovo ambiente.» «Appunto», disse lei con gratitudine. Ma veniamo a te, Tom. Io continuo a parlare di me e sono proprio un egoista. Parla tu ora. Dio, come devi essere felice. Sì, Tony, disse lui con forza. Gerda è una creatura meravigliosa, come ce ne sono poche su questa terra. Certo, è molto diversa da te. Ha un'anima d'artista. È una creatura singolare, enigmatica, affascinante. È vero, disse Tony, la quale aveva ascoltato il fratello con attenzione e serietà. Senza pensare alla lampada, si erano lasciati sorprendere dal buio. In quella, la porta del corridoio si aprì e, avvolta nell'ombra del crepuscolo, vi apparve una figura eretta in un'ampia vestaglia di picche e candido. I folti capelli rossi le incorniciavano il viso bianco e intorno agli occhi castani e molto vicini tra loro si addensavano ombre azzurrine. Era Gerda, la futura genitrice di altri Buddenbrook.